La più grande aspirazione di un essere religioso è la santità. Qualsiasi sia la sua espressione religiosa, il suo scopo finale sarà quello che non compiere atti o pronunciare parole che offendano la sua divinità. Se così non fosse, la realtà esistente per se stessa, completamente indipendente dalla nostra esistenza, l'assoluto o l'altro, l'inaccessibile, non sarebbe più assoluto, perché solo un essere assoluto può esigere doveri assoluti. La santità, cioè la perfezione, fa parte di questi assoluti. Anche la divinità degli ebrei e dei cristiani non esige niente di meno. Egli, quando condusse il popolo di Israele fuori dalla schiavitù d'Egitto, disse loro: «Poiché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo», Levitico 11 e 44. E l'apostolo Pietro ripeté a coloro che avevano posto la loro fede in Cristo: «Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta». 1 Pietro 1 e 1 quarto. Senza questa premessa, se il rapporto con la divinità, quindi, non determina un cambiamento nella nostra esistenza, la santità rimane un semplice principio spirituale, per cui ogni espressione religiosa è solo gioco ed inganno. Proprio perché la santità rappresenta il fine ultimo del religioso, dobbiamo prestare molta attenzione al modo in cui viviamo questa santità. Dobbiamo ammettere che non sia facile vivere secondo i parametri di Gesù Cristo, il Dio che si è rivelato sul Monte Sinai, innanzitutto perché la sua rivelazione, cioè la sua parola, la Bibbia, ci dice che tutti nasciamo da una razza incapace di adempiere la sua volontà. Questo fatto demotiva ogni nostra buona volontà nel tentativo di compiere ciò che sia giusto. Siamo spiazzati. La parola di Dio ci toglie ogni vana illusione di riuscire ad essere santi. Noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Giacché non capisco quel che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti, il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti, io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra, Romani 7, 14, 23. L'apostolo Paolo riconosce per esperienza che vi sia qualcosa nell'uomo che lo obbliga a compiere il male anche non avendone l'intenzione. Questo qualcosa è il peccato, che si presenta come una legge. Una legge è quell'evento che si ripete all'infinito, senza eccezioni. Come la legge di gravità. Ogni oggetto, lasciato nel vuoto, che non sia condizionato da un'altra legge uguale e contraria, cade per terra. Così è del peccato, essendo una legge, provoca inevitabilmente nell'uomo l'impulso a peccare. Ogni persona, se non è liberata da questa legge, si trova prima o poi costretta a peccare. Dopo aver preso in visione tale realtà, Paolo riconosce che, per un figlio di Dio, la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù lo ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Romani 8, 2. Dunque, colui che realizza la nuova nascita mediante un atto di fede in Gesù Cristo, riceve una natura nuova, santa, contraria all'inclinazione di peccare, ed è condotto dallo Spirito Santo. Per questo Paolo disse: «Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste». Dall'Atti 5:16-17. Il Figlio di Dio realizza così una dicotomia che l'accompagnerà fino alla tomba. Lo spirito di santità, che è in lui, lo incita a compiere la volontà di Dio. La natura peccaminosa lo conduce a compiere il peccato, cioè cose che Dio non approva. Il peccato, quindi, non si vince combattendolo, resistendogli, ma vivendo condotti dallo Spirito di Dio. Questo aspetto toglie a chi teme Dio tutta una serie di spreco di energie e tensioni, usate per resistere alle tentazioni. La santità non è il risultato di uno sforzo umano, quindi, ma di un abbandono dell'opera che Dio compie nell'uomo. Desiderare la santità è di conseguenza lo stato normale per un figlio di Dio. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. 1 Giovanni 3:9. Chi non ha questo obiettivo di santità può mettere seriamente in discussione la sua fede in Gesù Cristo e la sua appartenenza al regno di Dio. Purtroppo questo desiderio di santità nasconde un'insidia, spesso non individuata dal Figlio di Dio. Non potendole fare a meno, egli si rende conto che in lui continuano ad agire gli impulsi peccaminosi che spadroneggiavano in lui prima di ricevere una nuova natura. Si rende conto che più aspira alla santità, più si trova a combattere con una natura la cui inclinazione è esattamente all'opposto. Poiché considera tale esperienza non spirituale, egli tenderà a non riconoscerla, se non addirittura a rifiutarla. Egli considera l'inclinazione al peccare come un atto di debolezza, quasi che ciò che prova fosse il risultato di una mancata comunione con Dio. Ma non è così. La presenza della legge del peccato è sempre costante in un figlio di Dio, per cui, se non si è sotto l'impulso dello Spirito Santo, è normale essere indotti a peccare. Poiché il nato di nuovo vive normalmente nella volontà di Dio, egli trova strano essere ancora in grado di peccare e, a volte, se ne meraviglia al punto di accusare il diavolo o i fratelli per la sua mancanza. Io non penso proprio di essere in grado di compiere queste cose. Inconsapevolmente, rifiuta di avere ancora una natura malvagia e corrotta, come l'aveva quando non conosceva né Dio né Gesù Cristo. Per questo si offende se qualcuno gli fa notare che sta sbagliando, o se viene ripreso, perché ritiene tale osservazione o riprensione diretta a lui, alla sua moralità, e non tanto alla sua natura peccaminosa. Cosciente di avere lo spirito di santità in lui, nel suo cuore ancora malvagio e corrotto, alberga il segreto pensiero che la santità consista nell'essere esenti da malvagi e orrendi pensieri. Uno psicologo testimoniava di quante madri fossero scosse e turbate solo perché in loro scaturiva il desiderio di uccidere il loro bambino. Generalmente si risponde che questo sia normale per chi non ha una natura divina. Ma purtroppo inclinazioni diaboliche e malvagie salgono dal cuore anche in certi figli di Dio. Un altro aspetto letale di questo desiderio di santità è arrivare a non convivere con le proprie inclinazioni e desideri peccaminosi. Convivere non significa approvare. Io convivo con una società, ma non necessariamente sono d'accordo con tutto ciò che fa. Ho convissuto per 37 anni con altri miei colleghi in un ambiente di lavoro, ma ho spesso ripreso chi si comportava male. Così, convivere con degli impulsi corrotti non significa secondarli, ma condannarli. Così, mentre loro agiscono secondo la legge del peccato, io mi sottometto alla legge dello Spirito Santo, che è santità. Accetto questa guerra senza speranza di pace. Poiché questo contrasto è presente ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, alcuni figli di Dio, piuttosto che riconoscere il conflitto, ritengono ogni impulso un peccato. Questo atteggiamento ha reso la vita di tanti figli di Dio un peso, un fardello che impedisce loro di vivere nella gioia e nella pace di Cristo. Ed ecco che un omosessuale che diventa figlio di Dio si sente colpevole solo perché prova ancora degli istinti corrotti. Colui che esce dalle esperienze di droga o di una vita vissuta nella libidine più sfrenata confessa davanti a Dio, pur non commettendo nulla di effettivo, di essere un peccatore, solo perché tali istinti non sono scomparsi del tutto. Per questo figli di Dio che sono esempio di virtù si presentano davanti al loro Salvatore confessando continuamente i sensi di colpa suscitati da una coscienza non purificata dalla parola di Dio. Vivono nel tormento di voler essere quello che non possono diventare, cioè non provare più impulsi peccaminosi. Il desiderio di santità, desiderio che non proviene dall'uomo ma dallo Spirito Santo, diventa ossessivo e irreale, per cui la santità a cui aspirano diventa letale. Ciò che nasce da un principio buono di Dio viene trasformato in un'arma a doppio taglio. Vivere una vita con il peso di una colpevolezza inesistente. Per giustificare tale comportamento, ci è chi si appella a versetti e concetti dell'Antico Testamento quando la grazia e il perdono non erano ancora manifestati nella loro pienezza con la rivelazione di Gesù Cristo. Una santità letale viene anche dal versante sessuale. Il giorno in cui l'Eterno Dio creò l'uomo, creò un maschio ed una femmina. La diversità tra questi due esseri non consisteva tanto nel loro essenza, perché ambedue avevano un'anima, un corpo e uno spirito. Non era nel loro aspetto antropomorfico, perché ambedue avevano un corpo, ma nella loro caratteristica sessuale, una peculiarità diversa ma complementare. Per sessualità non si intendono solo caratteristiche fisiologiche, ma il modo di vivere e di relazionarsi con l'altro sesso. Il maschio è attratto dalla bellezza di una donna, trova appagamento nell'osservare il femminile. È un dato di fatto. Lo stesso Dio lo riconosce quando preannuncia al profeta Ezechiele la morte di sua moglie. Figlio d'uomo, ecco, io ti porterò via con un sol colpo la delizia dei tuoi occhi. Ezechiele, mezzanotte e 16. Trovare piacere nell'osservare tutto ciò che è femminile non significa essere colpevoli, ma godere di un aspetto che all'uomo manca. Certo, come disse Gesù, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Perciò il peccato consiste nel desiderio illecito, e non nel guardare una donna. Per me è una cosa piacevole osservare i capelli lunghi di una donna che cadano sulle spalle, ma non per questo io cado nel peccato di concupiscenza. Anche la voce femminile, un coro femminile, sono ragione di un piacere non indifferente. E che dire di una donna con un abito appropriato e la mia parte maschile che gode del femminile? Così è per la donna. Per natura, è soddisfatta e compiaciuta nell'essere osservata, cercata e desiderata. Ma considerare tale desiderio un peccato significherebbe andare contro natura. Sarebbe fuori luogo. Essere maschi e femmina è un dono dato da Dio ad ogni essere, perché l'uno possa apprezzare l'altro. Per completare una carenza umana, capiremo cosa significhi essere maschio e femmina solo nella misura in cui impareremo a vivere come uomini e donne, in una relazione libera, sincera, pura. Alcuni, per una morbosa e letale santità, ritengono anche la sessualità un peccato o un intralcio sul cammino della santificazione, mentre essa è stata data perché, mediante questa, si possa essere pienamente uomini e donne. Santità non esclude sessualità. Rifiutare la sessualità o il modo di essere uomo o donna non onora certamente il Creatore. La distinzione è stata creata da Dio. Accettare, vivere e godere di questa diversità senza sensi di colpa è un traguardo a cui pochi arrivano. Queste riflessioni possono sembrare inutili per alcuni, ma in una cultura impregnata di cattolicesimo romano, dove la rinuncia alla sessualità è considerata uno dei più alti livelli di santità, è necessario onorare ciò che Dio ha creato e ritenuto, invece, molto buono. Santità letale. Nessuno è esente da questo pericolo. Si può usare la santità come mezzo per coprire le proprie mancanze, oppure per mascherare la propria ipocrisia o orgoglio. I religiosi farisei pregavano e facevano elemosina, ma erano oltremodo ripugnanti a Dio. La santità diventa letale, dannosa, devastante, quando si pretendono relazioni perfette, sempre caratterizzate da un'idilliaca armonia e intesa. Chi cova nel profondo del suo essere tale visione, innegabilmente, si troverà sempre in armonia con i suoi principi di una santità inesistente, a rimanere solo, condannando gli altri di peccato. Questa è la grande e assurda contraddizione di alcuni, che ardono dal desiderio di santità. E, occorre chiarirlo, tale comportamento non è sempre dettato dalla malvagità, ma spesso dall'ignoranza. Ecco come rendono alcune versioni. Proverbi 19:2. Inoltre non è bene per un'anima essere senza conoscenza. Chi va a passi frettolosi sbaglia. Strada. Nuova Diodati. Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Nuova Riveduta. L'ardore stesso, senza conoscenza, non è cosa buona. E chi cammina in fretta sbaglia. Strada. Versione Riveduta. La stoltezza intralcia il cammino dell'uomo e poi il suo cuore si irrita contro il Signore. Fulvio Nardoni. La stoltezza dell'uomo ne guasta la condotta, il suo cuore se la prende con Yahweh. Salvatore Garofalo. Tutte le versioni mettono in evidenza che l'ignoranza sia fonte di errori, altre però aggiungono un'importante conseguenza. La trasgressione può produrre, in chi la commette, una rivolta verso Dio. Così, mentre il peccato non è necessariamente il risultato della malvagità, Paolo disse prima: «Ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità». 1 Timoteo 1:13. La rivolta verso Dio rivela una mancanza di sottomissione alla sua sovranità. A volte, un atteggiamento negativo rivela il carattere e i segreti pensieri del cuore di una persona, molto più che anni di una condotta irreprensibile. Quindi, il giusto obiettivo di una santità non letale deve tener conto anche dei risultati. Queste riflessioni sono tese a incoraggiare ogni figlio di Dio ad amare la santità, così come essa è espressa nella parola di Dio, ponendo attenzione però a non cadere nell'opinione che più si è santi, più si è esenti dal contrasto tra i desideri della nostra natura corrotta e i desideri dello Spirito Santo. Giacomo, nella sua lettera, al capitolo 5, lo dice chiaramente. Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra. Cosicché voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. La Scrittura riconosce questo continuo conflitto tra santità e peccato in colui che ha posto fede in Gesù. Perciò il credente è chiamato a vincere i desideri negativi camminando semplicemente guidato o controllato dallo Spirito Santo. E perché non fosse frainteso ciò che Dio non approva, Giacomo ha elencato tutta una serie di peccati. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, diottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. In seguito, perché non fosse anche frainteso come si deve vivere per lo Spirito, Giacomo elenca pure ciò che distingue una vita condotta dallo Spirito Santo. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Infine Giacomo, il fratellastro di Gesù, per riconoscere chi ha posto una reale fede in Cristo, afferma: ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Il vero discepolo di Cristo si riconosce nel crocifiggere, cioè nel rendere inefficace, nel non accondiscendere, tutte quelle inclinazioni che non sono approvate da Dio. Dopo una simile chiarificazione, Giacomo conclude dicendo: se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Cioè, chi dice di vivere guidato sotto l'impulso dello Spirito Santo deve anche mostrare nella vita quotidiana i frutti dello Spirito Santo. Il modo di affrontare l'etica di Dio dei primi cristiani mi ha sempre affascinato, perché essi non si perdevano in ragionamenti filosofici o astratti, ma guardavano i fatti, se essi combaciavano con ciò che si affermava. Oggi vi sono persone che candidamente affermano di essere guidate dallo Spirito Santo, ma mentono, hanno contese con tutti, commettono fornicazioni. Sembra quasi impossibile una simile contraddizione. Ma questo avviene perché il cristianesimo è rilegato ad un semplice concetto, ad una fede astratta, non ad un cammino. E questo è il motivo per il quale quando parlo con il prossimo faccio distinzione tra credente e cristiano. Il credente è colui che ha posto fede in Cristo, il cristiano è colui che vive secondo i comandamenti di Cristo. Il disorientamento religioso è dovuto anche a questa mancanza di distinzione. Giacomo ci ricorda ancora nella sua lettera che Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Più ci si avvicina a Dio, più si proverà il contrasto della nostra natura e l'opposizione di Satana. Ci fu un periodo in cui, all'improvviso di notte, mi svegliavo di soprassalto e un pensiero diabolico, prodotto da una presenza malvagia, attraversava la mia mente, al punto di ritrovarmi tutto sudato dall'angoscia. Il pensiero era irrefrenabile e, solo dopo aver diretto, con un atto di volontà, la mia mente alle promesse di Dio, fatte in Cristo, avvertivo questa presenza malvagia andarsene. Mentre facevo quell'esperienza, non ero più peccatore di prima, non mancava la mia comunione con Gesù Cristo, il compagno della mia vita, ma sperimentavo che, nonostante io sia partecipe della natura divina, 2 Pietro 1:4, sono soggetto ancora ad inclinazioni e tentazioni, come coloro che non sono figli di Dio. Desiderare la santità è un dono che Dio ha dato a tutti quelli che gli appartengono, ma ciò non garantisce la riuscita dell'obiettivo. Ecco perché sono molti coloro che iniziano un cammino cristiano anche in modo singolare, ma pochi coloro che arrivano serbando la fede. Chi desidera evitare una santità letale deve amare la santità, perché ciò presuppone un impegno costante, intelligente, dove anima, cuore, mente, forza si miscelano armoniosamente, con l'obiettivo di glorificare Gesù Cristo, il Santo d'Israele. Giugno 2003, Allero.